Canto quarto della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto quarto. Ruppemi l'alto sonno nella testa un greve tuono, sì ch'io mi riscossi come persona che per forza è desta. E l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fiso riguardai, per conoscer lo loco dov'io fossi. Vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, che tuono accoglie d'infiniti guai. Oscura, profondera e nebulosa tanto, che per ficcar lo viso al fondo io non vi discernea veruna cosa. Or discendiam qua giù nel cieco mondo, incominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. Ed io, che del color mi fui accorto, dissi: come verrò se tu paventi che suoli il mio dubbiare esser conforto? Ed egli a me: l'angoscia delle genti che son qua giù nel viso mi dipinge quella pietà che tu per tema senti. Andiam, che la via lunga ne sospinge. Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cinge. Quivi, secondo che per ascoltare non avea pianto, ma che di sospiri che l'aura eterna facevan tremare. E ciò avvenia di duol senza martiri, ch'avean le turbe, che eran molte e grandi, e di infanti, e di femmine, e di viri. Lo buon maestro a me: tu non dimandi che spiriti son questi che tu vedi? Or vo che sappi innanzi che più andi, che i non peccaro, e se gli hanno mercedi, non basta, perché non ebber battesmo, che porta della fede che tu credi. E se furon dinanzi al cristianesmo, non adorar debitamente Iddio, e di questi cotai son io medesmo. Per tai difetti e non per altro rio semo perduti e sol di tanto offesi che senza speme vivemmo in desio. Gran duol mi prese al cor quando lo intesi, perocché gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, cominciai io, per voler esser certo di quella fede che vince ogni errore, uscine mai alcuno, o per suo merto, o per altrui, che poi fosse beato? E quei, che intese il mio parlar coverto, rispose: io era nuovo in questo stato, quando ci vidi venire un possente, con segno di vittoria incoronato. Trasseci l'ombra del primo parente, d'Abel suo figlio, e quella di Noè, di Moisè legista, e ubbidiente, Abraham patriarca e David re, Israele col padre e co suoi nati, e con Rachele per cui tanto fe, ed altri molti, e fece di beati. E vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam d'andar perché dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva, dico, di spiriti spessi. Non era lunga ancora la nostra via, di qua dal sommo, quando io vidi un fuoco che mi sperio di tenebre vincia. Di lungi veravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernesse in parte, correvol gente possedea quel loco. O tu conori ogni scienza ed arte, questi chi son? C'hanno co tanta orranza che dal modo degli altri li diparte? E quegli a me: non rata nominanza che di luor suona su nella tua vita, grazia acquista nel ciel che si gli avanza. intanto voce fu per me udita: «Onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna ch'era dipartita». Poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza avean né trista né lieta. Lo buon maestro cominciommi a dire: «Mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi a tre, sì come sire. Quegli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio, satiro che viene. Ovidio è il terzo e l'ultimo è Lucano. Perocché ciascun meco si conviene nel nome che sonò la voce sola. Fannomi onore e di ciò fanno bene». Così vidi adunar la bella scuola di quel signor dell'altissimo canto che sopra gli altri com'aquila vola. Da che ebber ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. E più d'onore ancora assai mi fenno, ch'essi mi fecer della loro schiera, sì ch'io fui sesto tra cotanto senno. Così n'andammo infino alla lumiera, parlando cose che il tacere è bello, sì com'era il parlar colà dov'era. Venimmo al pie d'un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per sette porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti veran, con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado con voci soavi. Traemmoci così da l'un de canti in luogo aperto, luminoso ed alto, sì che vedersi potean tutti quanti. Colà, diritto sopra il verde smalto, mi fur mostrati gli spiriti magni, che di vederli in me stesso m'esalto. Io vidi Elettra con molti compagni, tra quai conobbi ed Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni. Vidi Camilla e la Pentesilea dall'altra parte, e vidi il re Latino che con Lavinia sua figlia sedea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia. E solo in parte vidi il Saladino. Poiché innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti l'ammiran, tutti onor li fanno. Qui vivi Dio e Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presso gli stanno. Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone. E vidi il buon accoglitor del quale Dioscoride dico, e vidi Orfeo, Tullio, Elivio e Seneca Morale, Euclide, Geometra e Tolommeo, Ippocrate, Avicenna e Gallieno, Averrois, che il gran comento feo. Io non posso ritrar di tutti appieno, perocché sì mi caccia il lungo tema che molte volte al fatto il dir vien meno. La sesta compagnia in duo si scema. Per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema. E vengo in parte, ove non è che Luca. Fine del canto quarto.